Lo libro di l'infami m'accattasti e la prima infami dammi la facesti. Non sento né rilogio e né amici, sento solo che mi misi in croce. Sento che amare mamma e mall'amico, che mamma mi risponde alla catena p'ammazzare sto infame che ci vuole. Una palla vecchia e un pugno dello para. Io.